Notizie della settimana della tecnica della scuola. Una scuola scrive bambini con l'asterisco legale insorge, scrive a Val di Tara, turbati i bambini, orrore fra i genitori. I generi maschili e femminili possono creare più di un problema, quindi meglio non rendere pubblico almeno nelle circolari, e questo è il concetto che ha indotto i vertici di un istituto comprensivo di Napoli a produrre una circolare diffusa a genitori e alunni con la parola bambini sostituita da bambin con l'asterisco finale. A denunciare l'accaduto è stato l'avvocato Angelo Pisani. L'iniziativa dell'istituto, sostiene illegale, va oltre ogni immaginazione, il limite a cui possono spingersi le ideologie, bambini con l'asterisco, come per indicare che esistono anche scolaretti di sesso incerto e che questo sarebbe normale. L'avvocato, che chiede un intervento del ministero, le dimissioni e le responsabilità delle iniziative, sostiene anche che questo genere di condotte provoca turbamento nei bambini ed orrore nei genitori. Indire arriva il nuovo presidente Manfredi, mentre l'istituto compie 100 anni di vita. A Firenze a presiedere l'Indire arriva Francesco Manfredi, economista e docente presso la LUM. Proprio in questi giorni si aprono le celebrazioni del centenario dell'istituto, la cui storia inizia appunto nel 1925, quando su impulso di Giuseppe Lombardo Radice nasce a Firenze la Mostra Didattica Nazionale sui prodotti delle scuole nuove che stavano nascendo in Italia in quegli anni. Nel 74 il centro cambia denominazione in Biblioteca di Documentazione Pedagogica. Agli inizi del secolo la BDP si evolve in Indire, Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa, e da quel momento si trasforma in un ente che si occupa non solo di ricerca e documentazione, ma anche di formazione del personale della scuola. Valutazione dirigenti scolastici al via dopo 25 anni di attesa, CISL Scuola è critica, parere negativo del CSP. Prende finalmente avvio la procedura per la valutazione dei dirigenti scolastici, ma l'iniziativa non sta entusiasmando il mondo della scuola. Le critiche sono arrivate già nei giorni scorsi dal CSP, che ha espresso parere negativo. Adesso c'è anche una presa di posizione di CISL Scuola. Il sistema, si legge nel comunicato sindacale, sarà avviato già in questo anno scolastico, senza tuttavia l'assegnazione degli obiettivi di rilevanza regionale che saranno introdotti a partire dal 25-26. Sono però rimasti risolti i nodi fondamentali, cioè la mancanza di una valutazione di prima istanza dell'apprezzamento dei comportamenti professionali e organizzativi dei dirigenti scolastici e il peso attribuito alla valutazione dei direttori regionali. Gino Cecchettin alla tecnica della scuola, studenti imparate a vivere i no, se i genitori vi spianano la strada cercate una sfida. Martedì 25 febbraio si è tenuta la quinta lezione di educazione civica in diretta organizzata dalla tecnica della scuola, dedicata al tema della violenza di genere che si manifesta sempre più spesso anche tra le aule e nelle scuole. Presente alla diretta Gino Cecchettin, presidente della fondazione Giulia Cecchettin, che porta il nome di sua figlia. Non possiamo recriminare cosa è stato o non è stato fatto in passato, la vera domanda è cosa possiamo fare oggi. Unitevi alle associazioni contro la violenza di genere e chiedetevi cosa potete fare. Fare dibattiti, convincete un compagno di classe che parla di proprietà nei confronti di chi dovrebbe amare, per combattere gli stereotipi che ancora oggi esistono, tutte quelle espressioni che screditano la donna. E per tutti gli aggiornamenti, live sul canale YouTube di Tecnica della Scuola.